Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il monologo vagamente surreale che avete appena ascoltato è in realtà una conversazione, già perché la giovane e avvenente Duon sta parlando niente meno che con King Kong, il gigantesco esemplare di gorilla che la tiene imprigionata tra le sue enormi dita scure. Il film da cui è tratto questo dialogo, fatto di grida, imprecazioni e feroci grugniti di risposta, è tratto dalla seconda trasposizione cinematografica della vicenda del famoso e famigerato King Kong, risalente alla metà degli anni 70. Per realizzare gli effetti speciali della pellicola, la Paramount Pictures e il celebre produttore Dino De Laurentiis si avvalgono delle competenze di un giovane artista e artigiano di nome Carlo Rambaldi. Tocca a lui, infatti, costruire un King Kong così verosimile da imprimersi indissolubilmente nell'immaginario collettivo mondiale. Un essere di dimensioni mastodontiche, che sia capace di incutere nel pubblico la giusta dose di paura e sgomento. Questo è il retaggio che la storia del gigantesco scimmione proveniente da un'isola misteriosa si porta dietro fin dai primi anni 30. Il 1933 è l'anno di nascita, se così si può dire, di King Kong e del mito che lo accompagna. Entrambi vedono la luce sul grande schermo. Il produttore David O. Selznick, che di lì a qualche anno passerà alla storia per Via col vento, si imbarca nell'impresa di produrre il lungometraggio che racconta la storia di un regista e della sua troupe sbarcati sull'isola tropicale dove regna incontrastato uno scimmione mastodontico. Narcotizzato e trasportato a New York, l'enorme animale semina il panico in città prima di soccombere tragicamente. Moderna rilettura del tema che già fu della Bella e la Bestia, King Kong è il classico indiscusso che generò il falso mito della ferocia e della pericolosità del gorilla, in realtà creatura estremamente intelligente e per lo più mansueta. La mia vista non penetrava per più di un metro nella massa verdeggiante. Strisciai e restai piegata a scrutare attraverso l'apertura. Erano là, i demoni delle favole indigene, le matrici del mito di King Kong, gli ultimi re della montagna di tutta l'Africa. Un gruppo di una mezza dozzina di gorilla adulti ci stava osservando con apprensione attraverso l'apertura praticata nel muro vegetale. Un gruppo di enormi, torreggianti corpi neri, visibili a metà, sormontati da facce nere di cuoio lucide come vernice, con caldi occhi castani profondamente infossati. Erano grossi e imponenti, ma per niente mostruosi. Facevano piuttosto pensare a una comitiva di giganti sorpresi nel mezzo del picnic dall'arrivo di estranei. La voce che avete appena sentito è quella della donna che, grazie a una ferrea determinazione e a una buona dose di incoscienza, ha contribuito a riaggiustare il mito di King Kong, riabilitando il gorilla nell'immaginario mondiale, oltre che nel loro habitat naturale. Forse vi sarà capitato di vederla di sfuggita in qualche vecchia fotografia, immersa nel verde lussureggiante della foresta, intenta a ridere e scherzare con giganteschi esemplari di gorilla. Si tratta di scatti finanziati niente meno che dalla National Geographic Society, che hanno contribuito a scrivere la storia dei reportage naturalistici. Protagonista è la coraggiosa Diane Fossey. Diane Fossey. Miss Fossey, in quelle splendide fotografie, mostra di essere più a suo agio con le scimmie che con gli esseri umani. La sua immersione nella natura è totale, addirittura sbalorditiva. Diane Fossey trova in Africa quello che ha cercato invano per 30 anni, la pace con se stessa e con il mondo che la circonda. La sua è la storia di una donna coraggiosa che non si è arresa all'idea di una vita normale in mezzo ai suoi simili, ma ha fatto dell'eccezione della vita spartana in mezzo ai gorilla la sua personalissima, esclusiva normalità. L'Africa popola i sogni di Diane fin da piccola. Il continente nero rappresenta, secondo la sua fervida immaginazione, il luogo dove sfuggire alle costrizioni imposte da una famiglia che non solo non la fa sentire amata, ma le impone di rinunciare alla sua più grande passione, quella per gli animali. Diane è abbandonata a se stessa e, come accade a molti bambini solitari, trae conforto dal fatto di sentirsi accettata in maniera spontanea da cani, gatti, canarini e perfino pesci rossi, specie quest'ultima di cui le è eccezionalmente concesso di tenere un esemplare. Si chiama Goldie e sta in una boccia sul suo comodino. È il primo e ultimo animale a entrare nella casa materna. Quando lo trovai che galleggiava a pancia in su nella vaschetta di camera mia, piansi per una settimana. I miei genitori accolsero il fatto come una liberazione, così non ne ebbi un altro. Una compagna di scuola mi offrì un porcellino d'India, ma loro lo consideravano un animale sporco, per cui non se ne fece nulla. Benché i genitori siano figli dell'America operosa e benestante, non appena Diane diventa adulta, provvede a se stessa da sé. Mantenendosi grazie a lavori più o meno saltuari, nel 1950 si iscrive alla facoltà di veterinaria dell'Università di Davis, in California, nonostante il parere dell'odiato patrigno che avrebbe preferito per lei un tranquillo futuro nel ramo commerciale. Se è vero che la ragazza eccelle fin da subito in materie come l'arte, la botanica, la zoologia, è altrettanto vero che non dimostra la pur minima affinità con discipline più prettamente scientifiche quali la matematica e la fisica. È proprio a causa di queste materie che Diane, al secondo anno, si vede costretta a mollare la facoltà. Non per questo, tuttavia, si dà per vinta. Se per il momento non potrà occuparsi degli animali, ripiegherà sui bambini in difficoltà. Nel 1954 la signorina Fossey si laurea in ergoterapia e trova lavoro in un ospedale di Louisville, nel Kentucky. Questi bambini presentano una certa varietà di turbe fisiche ed emotive. Sono veramente perduti in questo nostro mondo. Sembrano animali selvatici chiusi nel recinto senza alcuna speranza di uscirne. Hanno bisogno di una quantità enorme di attenzione e gentilezza per sentire che vale la pena vivere. Un approccio, questo di Diane, nei confronti dei bambini con handicap, che trae sostentamento dalla sua innata capacità di comunicare, usando linguaggi diversi da quello puramente verbale. Attraverso i gesti, gli sguardi o la semplice emissione di suoni elementari, Diane è in grado di stabilire un contatto profondissimo con i bimbi che altrimenti resterebbero chiusi nel loro mondo fatto di autismo e cieca sofferenza. I muri e le stanze dell'ospedale, tuttavia, amplificano in Diane la voglia mai sopita di vivere in spazi aperti, a contatto con la natura e con i meravigliosi abitanti che la popolano. Mi attira enormemente l'idea di stare là dove gli animali non sono ancora stati relegati in spazi ristretti. Non è mai passato un solo giorno senza che l'idea di partire per l'Africa facesse capolino fra i pensieri di Diane. La ragazza fa sul serio. Tanto per cominciare, legge tutto ciò che trova per documentarsi sul tanto agognato continente. Il libro dal titolo L'anno del gorilla, scritto dallo zoologo americano George Scheller, la lascia letteralmente a bocca aperta. Gli studi pionieristici dello scienziato sui gorilla di montagna del Congo belga sono quanto di più vicino ci sia alla sua idea di contatto con la natura. Finalmente il suo sogno si avvera. Il 26 settembre 1963 Diane parte alla volta di Nairobi piena zeppa di entusiasmo. Certo, ha impegnato gli stipendi dell'ospedale per i 3 anni successivi all'interesse d'usura del 24%. Ma che importa? Fin dal primo impatto sul suolo africano, Diane capisce di essere arrivata nel posto giusto, nel suo personale paradiso terrestre. Cinghiali irsuti e babbuini dappertutto, bufali, rinoceronti, scimmie di Sykes e Colobas, gru coronate. Ci sono così tante specie diverse che non so più da che parte girarmi. Dopo i primi giorni d'esplorazione, Diane decide di tentare il tutto per tutto. Questo per lei non è soltanto un viaggio, ma un tentativo, per quanto vagamente maldestro e certamente azzardato, di cambiare per sempre il corso della propria esistenza. Le piaceva il suo lavoro in ospedale coi bambini, ma si trattava comunque di una sorta di ripiego. Diane spera di incontrare sul suolo africano l'uomo che, secondo i suoi calcoli, sarà in grado di imprimere una svolta al suo destino. Lui è il noto paleoantropologo i cui scritti la affascinano già da tempo. I suoi studi sulle ossa preistoriche hanno stabilito che l'uomo esiste da molto più tempo di quanto si sia mai sospettato e che le sue radici affondino proprio nell'Africa orientale e non in Asia come si era creduto per lungo tempo. Le sue ricerche sui gorilla e gli scimpanzé, specie vicinissime all'uomo nella catena evolutiva, sono quelle che più interessano Diane. Condotte attraverso il metodo dell'osservazione diretta, consentono di conseguire sensazionali scoperte senza intaccare l'habitat in cui gli animali sono abituati a vivere da secoli. La signorina Fossey si arma di coraggio e raggiunge il campo dove il professore sta effettuando degli scavi archeologici. Lo vede da lontano e lentamente gli si avvicina esaminando i suoi capelli candidi e la barba trascurata da qualche giorno. Questo sessantenne impolverato per via degli scavi, dall'aria vispa e intelligentissima, risponde al nome di... Louis Leakey. Beh, lo studio dei primati è importantissimo. Noi studiamo gli scimpanzé, i gorilla, gli oranghi. A me interessa sviscerare lo stadio dell'uomo primitivo, del proto-uomo, diciamo così. Diane Fossey sta dritta davanti al suo mentore impettita. È lui il suo lasciapassare per la vita che ha sempre sognato. Sempre disponibile nei confronti di una ragazza di bell'aspetto, il professor Leakey si dimostra interessatissimo a quello che Diane ha da raccontargli. La fa sentire un'ospita attesa e gradita, per quanto inaspettata. Lei gli racconta del suo viaggio e lui le chiede dettagli e impressioni, spinto dalla curiosità innata di cui solo i grandi scienziati si possono fregiare. Diane, vista la disponibilità di Leakey, non manca di illustrargli il suo ambizioso progetto. Mi piacerebbe più di tutto andare nella zona dei vulcani Virunga e conoscere i gorilla di montagna. Il mio sogno è quello di vivere e lavorare qui un giorno. Leakey non può far altro che essere stupito e ammirato da tanta intraprendenza. Lo studio del comportamento delle scimmie, e in particolare dei gorilla di montagna, è un ramo altamente significativo e spesso trascurato delle ricerche accademiche di stampo tradizionale. E sì, che potrebbe illuminare moltissimi particolari e magari dischiudere nuove scoperte sensazionali sull'evoluzione dei nostri primi, primissimi antenati. Ora però, Leakey non ha tempo di dedicarsi troppo a Diane e alle sue pur nobili ambizioni. Gli scavi archeologici che ha da poco inaugurato hanno bisogno della sua completa attenzione. Leakey lascia alla ragazza con un augurio e una specie di promessa. Spera che il suo viaggio proceda bene e che presto o tardi i loro destini possano incontrarsi di nuovo. In quella giovane donna ha intravisto un incredibile miscuglio di incoscienza e ferrea determinazione. È certo che un giorno queste caratteristiche faranno al caso suo. Galvanizzata dall'apprezzamento del professor Leakey, Diane si spinge fino alle pendici dei vulcani Virunga per fare il secondo incontro più straordinario della sua vita, quello con un branco di nerissimi gorilla di montagna. Il rumore giunse prima dell'immagine e l'odore li precedette entrambi. Una flore penetrante di muschio, di stalla, e tuttavia, in qualche modo inspiegabile, umano. Poi l'aria fine della montagna fu frantumata, come una lastra di vetro, da una sequela di urla acute e assordanti. Nulla al mondo ti può preparare ad una così terribile valanga sonora. L'emozione di Diane è fortissima, così come forte, purtroppo, è il dolore del distacco dalla sua amatissima Africa. Ho provato non poco rincrescimento nel lasciare Virunga e le famiglie di gorilla che avevo appena imparato a conoscere. Mi preoccupa molto il loro avvenire. Per quanto tempo ancora potranno sopravvivere con tutti gli interessi contrastanti che minacciano il loro habitat? Toccherà anche ai gorilla la sorte subita da tanti animali selvatici, ovvero quella di essere le sventurate vittime dei tempi? Il ritorno in America è ancora più doloroso di quanto pensasse. I mesi trascorrono monotoni, tutti uguali, senza distinzioni. Il lavoro in ospedale le riesce tollerabile solo per la presenza dei bambini bisognosi delle sue cure. Non che Diane ami particolarmente i bambini, il suo non è un istinto materno in senso canonico, è più una sorta di spirito umanitario. Preferirebbe esercitarlo altrove, in un luogo dove davvero si possa inalare il respiro della vita del pianeta, del suo passato, del suo futuro. La sua porta verso l'Africa, rimasta tristemente socchiusa per troppo tempo, si spalanca di nuovo nel marzo del 1966. Il dottor Louis Leakey, di cui non aveva saputo più nulla dopo il fugace incontro in Tanzania di 3 anni prima, è volato dall'Africa in America per tenere una serie di conferenze. Una di queste avrà luogo proprio a Louisville, Kentucky, cittadina in cui vive e lavora Diane. È raro che le occasioni capitino 2 volte in una vita e questa per lei è già la seconda. Non può certo farsela sfuggire. L'auditorium è già al completo 1 ora prima dell'ora fissata per la conferenza. La star della serata è inevitabilmente ambita. C'è un'interminabile fila di studenti, giornalisti e ammiratori che segue il professor Leakey come una lunga coda fin dal momento in cui abbandona il microfono e il podio su cui era appoggiato. Diane attende il suo turno con pazienza e viene presto ricompensata. Leakey la riconosce e la sua bocca si allarga in un enorme sorriso. Diane ha sempre voluto lavorare con le scimmie. Aveva letto il libro di Schaller e poi era venuta da me la prima volta per convincermi a darle una chance. Allora io sapevo che non era pronta, non ancora. Questa volta invece era diverso. Leakey, la tempesta di domande. È poi riuscita a vedere i gorilla durante il suo safari? Se sì, quante volte? E che lavoro sta facendo ora? Che piani ha per il futuro? Le risposte di Diane sono così convincenti che il professore decide di sbilanciarsi. Venga da me in albergo domattina alle 8. Forse lei è proprio la persona che ho in mente per avviare uno studio a lungo termine sui gorilla. Diane quasi non crede alle proprie orecchie. Il suo più grande sogno sta per avverarsi. È importante ricordare che noi tutti proveniamo dall'Africa. Noi tutti abbiamo origini africane. Louise Leakey, studiosa e nipote del professor Leakey in persona, non ha dubbi. Il continente africano è la madre e la matrice dell'intera storia dell'umanità ed è anche il luogo d'inizio, l'unico possibile, dell'incredibile storia professionale di un'intrepida ragazza californiana. Destini incrociati. Non sono stati il destino o lo spirito d'avventura a portarmi in Africa. Desideravo intensamente vedere gli animali selvaggi e vivere con loro in un mondo non ancora interamente cambiato dall'uomo. Credo però che il mio vero desiderio fosse quello di tornare indietro nel tempo. Fin da quando ero bambina mi ero fatta l'idea che l'Africa significasse proprio questo. Tuttavia, quando finalmente riuscii ad andarci, nel 1963, le cose non erano più come le avevo immaginate. Quasi tutti i luoghi, ad eccezione dei deserti e delle paludi, erano stati invasi dalla gente. Trovai infine il posto che avevo cercato, ma solo al termine del viaggio. Proprio nel cuore dell'Africa centrale, dove ad altezze superiori ai 4.000 metri torreggiano i Virunga, antichi, imponenti vulcani quasi completamente ricoperti da una verde lussureggiante foresta pluviale. È Africa, sì, ma un'Africa che ti fa tremare di freddo anziché sudare. Diane Fossey, testarda e intraprendente ragazza americana, coltiva da sempre il sogno di vivere in mezzo alla natura incontaminata. Durante il suo primo viaggio in Africa nel 1963, ha trovato il posto che fa per lei, la fitta foresta pluviale che sta ai piedi dei vulcani Virunga, territorio d'elezione dei gorilla di montagna. L'unico contatto che possiede fra il sogno africano e la sua possibile realizzazione è quello del professor Louis Leakey, stimato studioso di fama mondiale, interessato a compiere ricerche proprio sugli esemplari di primati che vivono in quella zona. Diane lo ha incontrato in Tanzania nel 63 e lo incontra di nuovo qualche anno più tardi a una conferenza negli Stati Uniti. La giovane gli rinnova la sua ammirazione incondizionata e si propone ancora una volta come candidata per aiutarlo a condurre le sue ricerche. Leakey è ammirato, addirittura sbalordito da tanta cocciutaggine. Diane era un'intraprendente ragazza californiana che non è stata scelta perché fosse altamente qualificata. È stata scelta perché aveva lo spirito giusto e una forte, fortissima personalità. Leakey spiega a Diane che nessuna delle 22 candidate che ha incontrato fino a quel momento lo ha convinto. Lei invece è quella giusta, ne è sicuro. Decide comunque di metterla alla prova. Le chiede di sottoporsi immediatamente a un'appendicectomia prima della partenza. Non vorrà certo rischiare di trovarsi nel bel mezzo della foresta africana con un'infiammazione che potrebbe rivelarsi letale se presa troppo tardi. Diane si sottopone alla chirurgia senza battere ciglio. Sarebbe disposta a qualunque cosa pur di coronare il suo sogno. Terminata l'operazione, Leakey fa una confessione. La procedura non era strettamente necessaria. Si è trattato, in qualche modo, di un'ulteriore prova della dedizione di Diane alla causa. La giovane si infuria per un istante, poi gioisce. Andrà in Africa, questo è quello che conta. Louis Leakey è il suo benefattore. Chi siamo? Questa è la grande domanda. Essenzialmente siamo soltanto scimmie a postura eretta, dal cervello grosso, molto intelligenti. La giovane Louise, nipote del professor Leakey, è un'appassionata studiosa delle innumerevoli e fitte connessioni che esistono tra le scimmie e l'uomo. La nostra storia evolutiva è fatta di questo. Qualche decina di millenni fa non eravamo affatto dissimili da specie come i gorilla e i bonobo. La passione per questo particolare ramo di ricerche, Louise, ce l'ha scritta nei cromosomi. Suo nonno, il professor Louis Leakey, ci ha speso tutta la sua vita. Mentre parla dei suoi collaboratori, Louise sembra ritornare con la mente agli scavi impolverati di quando era bambina, enormi distese di polvere così ricche di testimonianze storiche, dove suo padre e suo nonno restavano per giorni e giorni con la schiena ricurva, intenti a dissotterrare briciole di storia dell'umanità. Ci sono giovani uomini e donne provenienti da tutto il mondo che impiegano il loro tempo camminando lentissimamente in lungo e largo sul suolo africano in cerca di scaglie, frammenti ossei, qualsiasi cosa che possa raccontarci un pezzettino del nostro passato e della nostra storia evolutiva. Quei frammenti minuscoli e apparentemente insignificanti sono la chiave per comprendere molte più cose di quanto sembri. Louis Leakey è nato in quello stesso continente magico che poi sarà al centro delle sue ricerche. I genitori, missionari britannici di stanza in Kenya, lo crescono a contatto con la natura e con la popolazione locale. Insieme ai coetanei, Louis si diverte a collezionare gusci d'uova, cocci e frammenti ossei, iniziando forse inconsapevolmente a coltivare la sua futura passione archeologica. Il giovane Louis inizia gli studi in Kenya e li prosegue poi nella prestigiosa Università inglese di Cambridge. Qui si laurea nel 1926 a soli 23 anni in archeologia e antropologia. Leakey è impegnato fin da subito in ricerche importanti. Per questo torna spesso in Africa a condurre svariate e numerosissime spedizioni. Ed è proprio qui che a un certo punto della sua carriera si stabilisce nuovamente con la seconda moglie Mary. Insieme i due raggiungono la notorietà planetaria alla fine degli anni 50, quando scoprono nella gola di Olduvai, in Tanzania, un esemplare di ominide appartenente al genere Australopithecus, vissuto nella zona dell'Africa orientale tra il Pliocene e il Pleistocene. A parlarcene è ancora Louise Leakey. Questo viaggio ritroso nell'interesse dell'umanità è stato al centro della vita della mia famiglia nelle ultime tre generazioni. Abbiamo iniziato a stabilirci nell'Africa orientale per cercare resti fossili che ci aiutassero a ricostruire il nostro passato evolutivo. Gli scavi condotti con la moglie Mary, oltretutto, fanno crescere nel professor Leakey la convinzione che lavorare con le donne migliori nettamente la qualità delle sue ricerche. Le donne sono spesso molto precise, ma al contempo appassionate. Si lasciano trasportare come un turbine dal sentimento che nutrono nei confronti della materia che stanno studiando. Per questo è fermamente convinto della bontà della sua scelta. Diane Fossey saprà capire i gorilla molto più di quanto saprebbe fare un qualunque scienziato di sesso maschile, pieno di diplomi e attestati altisonanti. Agli occhi di un profano, Diane potrà sembrare una giovane scarsamente qualificata per un simile incarico. Ma agli occhi di Leakey, lei è in assoluto la scelta migliore. I loro sguardi bruni e lucenti guizzavano nervosamente sotto le spesse sopracciglia nel tentativo di stabilire se eravamo pericolosi. Si stavano chiaramente domandando se era prudente restare dove erano o se non era meglio tagliare la corda. «Kweli Ndugu Yanga!» Queste parole in Swahili, sussurrate dall'intimorito cuoco del campo che vedeva anche lui il gorilla per la prima volta, esprimevano esattamente ciò che sentivo anch'io. Quelle parole significavano «Dio mio!» Siamo proprio fratelli. Nessuno fino a quel momento aveva mai dimostrato un pari grado di comprensione né un simile attaccamento nei confronti di un gorilla. Diane vede in loro, nei loro occhi color nocciola, il passato della specie umana, la sua storia, i suoi pregi, i suoi difetti, i prodromi della sua evoluzione. Diane è la prima a dischiudere al mondo l'idea rivoluzionaria che quegli animali così imponenti siano tutt'altro che pericolosi. A parlarci di questa conquista è proprio il professor Leakey. Il maschio del gorilla di montagna è un bestione di quasi 200 kg, ma al contrario di quel che si dice nei libri e nelle storie alla King Kong, non è affatto aggressivo, benché sia certamente molto forte fisicamente. Ora, dopo lunghi mesi di osservazione, Diane ha avvistato quattro gruppi di gorilla ed è riuscita a farsi accettare da loro. Nei confronti dei gorilla, Diane dimostra la stessa tenacia che l'ha spinta a inseguire il professor Leakey per riuscire a coronare il suo sogno africano. Si avvicina a loro con incrollabile pazienza, mitigando lo slancio naturale che la porterebbe ad essere precipitosa, con la consapevolezza di dover attendere il momento giusto per far breccia nei loro cuori. Un esemplare di maschio piuttosto grosso era al centro delle sue attenzioni. Lei lo osservava in maniera discreta, tenendosi ad una certa distanza. Un giorno, d'improvviso, lui è saltato fuori dal nulla come se volesse attaccarla. Urlava forsennatamente e si batteva il petto. Lei si guardò bene dal mostrargli le sue mani, che è la prima regola da tener presente se si sta di fronte a un gorilla arrabbiato. Le mani sono lo strumento con cui combattiamo, mostrarle è sinonimo di sfida e di contrattacco. Poi si è accovacciata piano, nascondendo la testa tra le ginocchia. Lui ha gridato ancora un po', ma poi, improvvisamente, si è dileguato. Diane stava andando via, ma lui, con la stessa rapidità con cui era sparito, è tornato di nuovo e la scena si è ripetuta. Il giorno seguente è tornato con tutto il resto del gruppo. 9 gorilla in tutto. Si sono seduti e hanno giocato con Diane. L'avevano accettata fra loro. Stabilitasi in Ruanda e allestito il campo che ben presto diventerà un fiorente centro di ricerche, Diane dedica tutte le sue giornate ai gorilla. Di giorno li osserva, li conosce, gioca e interagisce con loro. Di sera trascrive le sue impressioni battendo con forza sui tasti della sua macchina per scrivere Olivetti, la stessa che si è portata dall'America. Là, in mezzo alla foresta, seduta davanti al fuoco nel suo amato rifugio alle pendici del Virunga, il continente in cui è nata non potrebbe sembrare più distante. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stand. stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Destini incrociati. Destini incrociati sta seguendo la carriera di Diane Fossey, donna intraprendente che ha coronato il suo sogno, trasferirsi in Africa per studiare i gorilla di montagna, specie che negli anni 60 è a forte rischio d'estinzione. La creazione del Mountain Gorilla Project non sarebbe stata possibile senza l'aiuto e le basi scientifiche di Louis Leakey, il professore che sceglie proprio Diane per portare avanti i suoi studi. La donna, ormai stabilitasi al centro ricerche di Karisoke, nominato dalla fusione dei monti che su di esso si affacciano, il Karisimbi e il Visoke, è supportata finanziariamente niente meno che dalla National Geographic Society. Uno sponsor prestigioso e un sicuro lasciapassare per la celebrità sua e dei suoi gorilla. Tra 10 anni Diane potrà certamente tenere lezioni nelle università. Prende appunti forsennatamente, annota tutto quello che le accade quando sta con i gorilla. Ha trascorso più di 200 ore di osservazione diretta di gruppi di gorilla. Non solo osservazione, ma contatto diretto fin nelle sue pieghe più emotive e affettuose. Diane battezza tutti i suoi gorilla per nome come fossero figli e nipoti. Digit, Beethoven, Macho, Zio Bert. Per lei non c'è differenza tra esseri umani e animali, anzi, se proprio dovesse scegliere, quasi certamente propenderebbe per la compagnia di questi ultimi. Gli uomini sanno essere talmente crudeli e ottusi, specie se si tratta di coltivare i propri interessi. Un giorno Diane si era recata nella città più vicina per fare provviste. Passando accanto a un edificio, ha sentito un lamento straziante e ha trovato un cucciolo di gorilla intrappolato in una gabbia così piccola da non riuscire nemmeno a muoversi. Stava soffocando per il caldo. Diane lo ha salvato e dopo 2 giorni la stessa scena si è ripetuta con un altro cucciolo. Quindi si è ritrovata a far da madre a 2 gorilla che chiamò Pucker e Winkle. E li rimise in sesto curandoli amorevolmente come fossero dei figli. Ma poi fu costretta dal governo del Ruanda a lasciarli andare. Erano stati promessi allo zoo di Colonia, dove poi sopravvissero per meno di 1 anno. Che crudeltà inaudita. L'episodio raccontato dal professor Leakey è solo l'inizio di una lunga serie di incomprensioni, dispetti, sgarbi, ripicche, sottili antipatie e plateali rotture fra Diane, le autorità ruandesi e la popolazione locale. La sua presenza non è sempre gradita, la sua testardaggine è proverbiale. Nessuno può azzardarsi a dirle che non può o non deve fare qualcosa. È disposta a tutto pur di difendere i gorilla e il progetto di ricerca, anche a inimicarsi i bracconieri che lavorano per procacciare cuccioli agli zoo europei col consenso del governo. E non si tira indietro nemmeno se si tratta di calpestare i piedi alle autorità, africane o internazionali che siano. Un atteggiamento, quello di Diane, che le procura non pochi nemici, non solo fra i bracconieri, ma anche fra le schiere di turisti e visitatori, sprovveduti o attrezzati e motivati, poco importa. Sempre più amica dei gorilla e sempre meno degli esseri umani, la donna rischia molto più di quanto il suo idillio nel bel mezzo della foresta lasci sospettare. Le foto pubblicate all'inizio degli anni 70 dal National Geographic l'hanno resa una celebrità. Parte della comunità scientifica dissente a causa delle sue oggettivamente scarse qualifiche, ma il pubblico l'adora e i turisti nel corso degli anni cominciano a riversarsi prima alla spicciolata, poi in massa a Karisoke. Diane detesta qualsiasi interferenza, non solo alla quiete degli animali, ma anche alla propria. Può darsi che nel corso di anni di pressoché totale isolamento il suo carattere si sia indurito. Certamente però era già nata combattiva e persino ferina all'occasione. Un istinto quasi animalesco il suo, che però non può salvarla dalla tragica fine che l'aspetta. Il cielo sta appena cominciando a schiarire, quando la mattina del 27 dicembre 1985 Diane viene trovata brutalmente assassinata nel suo alloggio, il volto squarciato da parte a parte con un machete. Un feroce delitto, rimasto sostanzialmente senza colpevoli, a fronte di una pletora di possibili moventi. L'ingombrante presenza di Diane, dopo quasi 20 anni di onorato servizio a Carisoke, era ormai a malapena tollerata. Una donna scomoda per il Ruanda, che dopo la fama ottenuta proprio grazie a lei, spera di guadagnare montagne di quattrini aprendo parchi naturali a uso e consumo di turisti accorsi da tutto il mondo per gustarsi il loro quarto d'ora di amicizia coi gorilla. Una donna scomoda per i bracconieri, che già l'avevano minacciata più volte, spaventandola con riti e incantesimi di morte tipici della magia nera. Sembra quasi che Diane se lo aspettasse, se questa è l'ultima frase che annota frettolosamente sul suo diario. Quando capisci qual è il valore di tutta la vita, ti soffermi di meno sul passato e ti concentri di più sulla conservazione del futuro. Passato e futuro. Due tappe temporali apparentemente distanti, eppure così intimamente allacciate. Chissà se Diane stava pensando alla conservazione della propria vita o alla salvaguardia del futuro dell'umanità. Abbiamo un passato comune e condividiamo un futuro insieme. In termini di evoluzione, noi non siamo altro che un puntino. Siamo seduti sull'orlo di un precipizio. Diane Fossey ha salvato i gorilla di montagna dall'estinzione, combattendo contro gli interessi degeneri della specie umana in favore di quelli della natura. È morta per questo. Si è seduta sull'orlo del precipizio e ha atteso, con stoica pazienza, che qualcuno la spingesse di sotto. Chi siamo noi? Beh, certamente siamo una specie inquinante, dissipatrice, aggressiva, con forse giusto un paio di buone qualità. Per lo più non siamo particolarmente gradevoli. Abbiamo un cervello molto più voluminoso dei nostri antenati scimmie antropomorfe. Si tratta di un adattamento positivo o questo ci porterà ad essere la specie ominide che vivrà di meno sulla Terra? Che cos'è che ci rende davvero noi stessi? Credo che sia la nostra intelligenza collettiva, la nostra abilità di scrivere, il nostro linguaggio e la nostra coscienza. Se in quanto umani possediamo una coscienza, allora non ci resta che usarla. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes.